Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buongiorno da Luca Tremolada. Nel 2006 si chiamava H5N1, oggi è H1N1. L'influenza è entrata chiaramente nell'era della globalizzazione e viaggia più veloce rispetto al passato, sia attraverso i continenti che tra i titoli del giornale, come vediamo quotidianamente. Sono in studio con Guido Romeo, giornalista di Nova, scrive di virus e di scienza, giusto? Sì, tante altre cose, anche ciao, buongiorno. Ma la persona qui con cui parlare di virus è molto più importante e più interessante di me. Abbiamo con noi una virologa che negli ultimi anni ha cambiato il modo di andare a caccia di virus nel mondo. Lei si chiama Ilaria Capua, sentiamo chi è. Lei si definisce solo una veterinaria prestata all'epidemiologia, ma per molti è una revolutionary mind. Il suo lavoro ha già cambiato il modo di fare ricerca sull'influenza. È Ilaria Capua, epidemiologa presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, oggi in prima linea nella lotta alle pandemie, dall'aviaria alla più recente influenza A. Proprio sul fronte dell'aviaria, nel 2006 Capua è stata la prima al mondo a identificare i ceppi del virus arrivati in Africa dall'Asia e a sequenziarne il genoma. Contattata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per condividere i dati, ha scoperto che la sequenza genetica del virus, ottenuta con fondi pubblici per la ricerca, sarebbe finita in un database segreto ad accesso riservato, del quale sarebbe così potuta diventare membra. Il suo rifiuto l'ha fatta diventare un simbolo della ricerca aperta e condivisa, e catapultata sui giornali di tutto il mondo, dal New York Times a Le Monde. Passata la tempesta mediatica, da questo episodio l'anno scorso è nato gsaid.org, un archivio aperto che raccoglie le informazioni su virus di tutto il mondo. Perché contro un virus globalizzato la condivisione delle informazioni è la miglior difesa contro la pandemia. Buongiorno dottoressa Capua. Buongiorno, buongiorno e grazie. Allora, come abbiamo sentito, insomma, nel 2006 l'allarme mediatico era fortissimo. Tre anni dopo torniamo a leggere sui giornali e a temere questa influenza. Che cosa è successo? Quali sono le differenze tra tre anni fa e oggi? Ma insomma, di differenze ce ne sono molte. Vorrei dire in primo luogo che una delle differenze più importanti che ci sono, che c'è oggi e che allora non c'era, era che siamo molto più preparati. Quindi lo spauracchio dell'H5N1 ha provocato in tutti i paesi una reazione significativa a prepararsi alla pandemia, e oggi ne stiamo diciamo utilizzando i benefici. L'H5N1 è un virus che per nostra fortuna non ha imparato a trasmettersi da uomo a uomo, e quindi provoca ancora oggi purtroppo casi di infezione nei paesi che sono colpiti, quindi soprattutto nei bambini, poi tra parentesi, nei bambini e nelle donne, che però rimangono dei casi localizzati. Quello che un virus può fare nell'era della globalizzazione ce lo sta facendo vedere l'H1N1, che per nostra fortuna non ha l'aggressività dell'H5N1, ma è trasmissibile, e appunto è trasmissibile da uomo a uomo come un virus influenzale che si rispetti. 824-0024 il numero per chiamare in trasmissione, per gli sms 349-238-6666. Ecco, per fare un punto, visto che siamo anche sottoposti a un flusso di informazioni sull'influenza poderoso, abbiamo realizzato con Guido Romeo una scheda che poi andiamo subito a commentare. 2 miliardi di persone, praticamente un terzo della popolazione del pianeta, infettata dall'influenza A. È questa la stima dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per la progressione della prima pandemia del nuovo millennio. Un'infezione che, per fortuna, si sta rivelando molto meno pericolosa e mortale di quanto temuto, ma che in Italia potrebbe colpire fino a 10 milioni di persone. La nuova pandemia ha sorpreso scienziati ed esperti per aver fatto il giro del mondo a tempo di record in poche settimane. un vero e proprio fenomeno della globalizzazione con il quale il nostro mondo dovrà fare i conti sempre più spesso nei prossimi anni. Per risolvere un problema di queste dimensioni ci vogliono tecnologie e fondi, ma soprattutto una visione innovativa di come affrontare i problemi. Oggi ricercatori si stanno cimentando in una sfida che è allo stesso tempo scientifica e sociale. Tra i loro obiettivi, lo sviluppo di un vaccino che, grazie a nuove metodologie, potrebbe arrivare già alla fine di ottobre, ma anche nuove reti di sorveglianza globale e condivisione dei dati, oltre a campagne di informazione. Perché, anche se l'allarme mediatico passa, la minaccia di un virus in grado di mietere milioni di vittime e mettere in ginocchio l'economia è sempre viva. Ecco, come ho parlato, c'è un flusso costante. Guido, c'è qualche novità negli ultimi 2 ore? Sì, guarda, l'ultima notizia in data sull'influenza riguarda proprio una misura di contrasto, il famoso vaccino anti-influenzale che molti ricercatori stanno preparando nei laboratori e sappiamo adesso per certo, perché il Ministero della Salute ha finalmente confermato l'ordinanza, e sappiamo che dal 15 ottobre dovrebbe cominciare la vaccinazione dei non di tutti gli italiani, ma insomma di quegli 8,5 milioni di addetti ai servizi essenziali, quindi dai medici ai piloti, ai autisti, per fare in modo che non si fermi il paese. E poi a scaglioni dovrebbero essere vaccinati fino a 24 milioni di persone, quindi qualcosa come il 40% della popolazione italiana. Ecco, torniamo invece sul tema del virus, Guido. Torniamo sul tema del virus. Il virus, abbiamo detto, abbiamo sentito le cifre a livello di popolazione mondiale, a livello italiano c'è ancora una forchetta abbastanza ampia, si parla di una cifra intorno ai 10 milioni di casi. Ecco, ma usciamo un attimo, proviamo a uscire dalle cifre e coinvolgere la dottoressa Capua. Io ho letto, mi dica se ho capito bene, che questo virus circolava ormai da oltre 90 anni. È corretto? No. Ecco. Alcune componenti di questo virus circolavano da diversi anni, anche insomma, se siano 90 o no, proprio non lo so. Perché i virus influenzali sono come dei mazzi di carte. Quindi il genoma dei virus influenzali, che è fatto di tanti segmenti, si mescola e si rimescola e si rimescola con geni che arrivano da specie animali diverse. Quindi questo virus, diciamo, ha uno scheletro, ha un certo numero di geni che sono sempre stati dentro i virus suini cosiddetti, e poi ha acquisito nel corso degli anni dei geni di virus umani e di virus aviari, e quindi è emersa questa chimera che ha dei geni virali appartenenti a ceppi isolati molti molti anni fa e dei geni invece più nuovi. Ecco, quindi è un po' come una macchina che ha fatto il restyling, ecco. Ecco, ha parlato di chimera, perché uno dei sospetti che si leggono anche su internet è che questi virus che mutano naturalmente poi di fatto possano essere in un certo modo indotti a mutare. Questo in particolare è un virus che ha sia, diciamo, la faccio un po' semplice, al maiale, al pollo, all'uomo dentro. Sì, ma questa è la storia dei virus influenzali. I virus influenzali sono così, cioè in realtà loro sono dei contenitori di geni che infettano varie specie animali. Quindi a mio avviso bisogna veramente vedere questa infezione sotto una nuova luce e comprendere che non è possibile separare ciò che avviene negli animali da ciò che avviene nell'uomo, ed è proprio questo quello su cui stiamo lavorando e su cui ho lavorato quando sono stata negli Stati Uniti. Sono appena tornata, sono stata due mesi negli Stati Uniti, è su un nuovo approccio in questa infezione. Questa non è né la prima né l'ultima pandemia influenzale, e le altre e le precedenti si sono verificate più o meno nello stesso modo. Ecco, allora, dottoressa, prima di capire come affrontare la pandemia, c'è un ascoltatore in linea, Corrado da Bari, che vuole fare una domanda. Buongiorno Corrado. Sì, buonasera. Un'informazione abbastanza rapida. Volevo soltanto sapere se era giustificato questo allarme che deriva dai mezzi di informazione, perché sembra che sia una cosa estremamente grave. È chiarissimo, è chiarissimo. Prego, dottoressa, è giustificato anche il tono dei titoli che vengono scritti sui giornali? Guardi, io quello che posso dire è che quando un virus emerge dal serbatoio animale, tu non sai mai come si comporterà finché non lo vedi nelle persone. Quindi un certo grado di allarmismo, a mio avviso, all'inizio, quando questo virus è emerso, quindi parliamo del mese di aprile, era giustificato. Sinceramente i titoli dei giornali li fanno i titolisti, e se uno legge l'articolo e non legge il titolo, vede che poi il titolo molto spesso è molto più altisonante, ecco, c'è roboante. Guido Romeo, che ha scritto più di un articolo sul virus, sull'influenza, sorrideva. Io sorrido perché per fortuna non faccio il titolista, è vero, fare il titolista, i colleghi lo sanno, è sempre la parte più difficile, bisogna vendere la pagina. Ma io volevo chiedere una cosa, Ilaria Capua, perché lei giustamente parlava di questo mazzo di carte che stiamo rimescolando, e con la globalizzazione è aumentata la velocità con il quale rimescoliamo queste carte. Vuol dire che ha aumentato anche il pericolo, diciamo, dell'infettività, proprio della gravità del virus, non solo la velocità con cui si propaga? Abbiamo più rischio? Ma è forse l'unico rischio di generare un virus che sia più aggressivo, a parte i cambiamenti naturali al quale il virus sottostà quando infetta la popolazione umana, è quella che questo si mescoli con un virus H5N1, e questo è un problema che è stato sollevato da più parti, perché qualora dovesse emergere in un paese in via di sviluppo un virus chimera che ha i geni dell'H5N1, l'aggressività dell'H5N1, la trasmissibilità dell'H1N1, la situazione sarebbe molto più grave. E quindi, a mio avviso, bisogna anche ragionare su questo, su questa potenzialità del virus, e a livello internazionale considerare di vaccinare le persone che sono più a contatto con gli animali nei paesi in via di sviluppo, perché sono proprio queste persone, quindi le fasce più basse della popolazione. Ecco, questo è un tema centrale, anche perché io sempre ho letto che il virus potrebbe diventare più aggressivo passando in determinati, io ho letto, ecosistemi alterati. Che cosa intendiamo per ecosistemi alterati? Non lo so, perché non l'ho scritto io, però quello che però vorrei chiarire è perché per ecosistema alterato forse si intendono anche gli allevamenti intensivi, eccetera, eccetera. Esatto. Vorrei sottolineare che il virus più aggressivo che si sia mai verificato nella storia nell'ambito del virus influenzale è il virus della spagnola. Il virus della spagnola è emerso nel 1917, quando gli allevamenti intensivi non c'erano. Quindi la generazione di questi virus è un fenomeno naturale. Noi dobbiamo capire che noi siamo numericamente molto inferiori ai virus e ai microbi in generale, e quindi dobbiamo imparare a gestirli, perché siamo quasi noi gli ospiti nel loro mondo. Allora, da un punto di vista anche numerico siamo anche meno. Dal punto di vista numerico, quindi questi virus emergono ciclicamente dal serbatoio animale, possono essere virus che sono più aggressivi, che sono meno aggressivi. Quello che noi dobbiamo fare è non farci prendere dal panico, comprendere che non è possibile interrompere questa catena, perché gli animali sono ospiti della terra come lo siamo noi e come lo sono i virus, e quindi dobbiamo in qualche modo trovare delle strategie per limitare i danni e per combattere le infezioni prima che i buoi siano scappati. Guido? Sì, una cosa sugli ecosistemi, appunto, credo che la questione sia molto interessante, perché noi parliamo di vaccini, parliamo di virus che viaggiano in aereo al tempo della globalizzazione, ma le origini poi del passaggio, dell'emersione dal serbatoio animale e l'entrata appunto nel circolo umano del virus, come diceva Capua, avviene però in contesti particolari, cioè di una particolare vicinanza dell'uomo e dell'animale, e questo forse si sta accelerando. Che cosa sta succedendo in paesi come il Messico, come l'Asia? Non è solo l'allevamento intensivo, è anche, come diciamo, le misure igieniche che vanno forse sottolineate. L'igiene è il primo strumento per combattere le infezioni, quindi è ovvio che lì dove c'è povertà e c'è scarsità di mezzi e di infrastrutture anche nell'ambito dell'allevamento animale, lì dove non c'è igiene il rischio è maggiore. Ma quello che dobbiamo capire è che purtroppo noi non possiamo più parlare di una malattia perché loro in Messico, perché non è un problema di loro in Messico, è un problema nostro, perché in 24 ore il problema loro in Messico diventa un problema nostro, e quindi bisogna vedere la sanità animale come parte integrante della sanità pubblica e a livello però transnazionale, perché viviamo nell'era globalizzata. Ecco, proprio sul tema delle strategie che ha appena sollevato la dottoressa Capua, io chiamerei Stefania Salmaso dell'Istituto Superiore della Sanità. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Ecco, abbiamo letto in questi ultimi giorni che le farmacie si sono dette disponibili a ospitare medici, i teatri stanno valutando se vaccinare il personale, addirittura a Napoli sarà vietato baciare la teca di San Gennaro. Insomma, che strategie stiamo mettendo in atto, e se, come sta appena detto la dottoressa Capua, dobbiamo ragionare da un punto di vista più globale, non solo a livello nazionale, non solo nel nostro, diciamo, piccolo. Senz'altro, le strategie devono essere a livello globale, però è anche vero che quando si arriva ai fatti in pratica ognuno deve fare la propria parte, quindi in questo caso nel controllo è anche vero che l'avvento di questa pandemia era già stato preannunciato, si parlava di pandemia da molto tempo, come giustamente ha detto il direttore dell'OMS quando ha dichiarato a maggio, anzi no, l'11 giugno ha dichiarato la fase 6, ha detto il mondo non è mai stato tanto preparato a una pandemia, perché le volte passate nessuno ci aveva avvisato per tempo. Quindi questa volta le informazioni e le azioni, le strategie sono a livello globale, ma poi ognuno deve fare i conti a casa propria. A casa nostra, in Italia, intanto abbiamo messo in campo delle strategie per ridurre la diffusione dei casi importati dall'estero, perché i primi casi erano soprattutto legati ai viaggi, senza voler bloccare la mobilità del mondo. Perché anche perché pandemia non è possibile. Esatto, ma poi la pandemia per definizione circola, è molto contagioso il virus dell'influenza, e sarebbe stata una situazione assolutamente perdente. Quindi senza bloccare la mobilità delle persone abbiamo fatto in modo di ritardare il più possibile il diffondersi nella popolazione. La strategia all'inizio è stata quella di ridurre, di contenimento, quindi ridurre l'importazione di casi il più possibile, circoscrivendo i casi delle le persone che arrivavano in Italia con l'infezione, quindi identificandole precocemente, trattando loro e i contatti. Questo per un po' ha funzionato e siamo andati un po' più piano. Poi ovviamente questa situazione diventa non gestibile per l'aumentare dei casi e si è passato, come tutti gli altri paesi del resto in Europa, a procedure che si chiamano strategie di mitigazione, cioè riduciamo l'effetto negativo della pandemia. L'influenza circolerà, un certo numero di italiani la prenderanno, però evitiamo che ci siano troppi danni. Quindi la mitigazione è semplicemente comporta un tentativo ancora di rallentare la diffusione, nel senso che se anche possiamo pensare che alla fine della pandemia ci saranno un certo numero, un certo milione di italiani che si è messo a letto e l'ha presa, l'effetto sull'Italia sarà ben diverso se gli italiani sono messi tutti a letto contemporaneamente nella stessa settimana o se invece è successo nell'arco del tempo. È diverso perché anche quelli che non hanno l'influenza pandemica hanno diritto a farsi curare dai medici, e se i medici sono tutti intasate, le strutture sanitarie sono tutte intasate di altre richieste, ovviamente. Quindi, ecco, ma il governo di questa emergenza è nazionale, nel senso che non c'è stato una... Sì, per definizione le emergenze sono gestite nazionalmente, abbiamo anche un piano pandemico approvato, ormai iniziato a redigere nel 2002, rivisto nel 2006, questo dovrebbe dare la misura di quanto tempo è che ci si pensa sopra. E quindi le decisioni sono di livello nazionale concordate con le regioni per la parte attuativa operativa. Ecco, noi ritorniamo a parlare di pandemia e soprattutto ritorniamo a parlare sia con la dottoressa Salmaso che Ilaria Capua tra pochissimo, e introduco già il tema, cerchiamo anche di capire un aspetto economico abbastanza strategico, ossia come vengono calcolati i vaccini, cioè come viene calcolato il numero di vaccini e il numero di antivirali che devono essere messi in campo per affrontare la pandemia. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, siamo con la virologa Ilaria Capua e la dottoressa Stefania Salmaso dell'Istituto Superiore della Sanità. Abbiamo in linea Alfredo da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Mi dica. Sì, un'informazione molto veloce. Io o ieri o l'altro ieri, praticamente ascoltando una radio locale di Padova che parlavano di questa influenza, parlavano anche del vaccino che sì, verrà utilizzato. E all'interno, diciamo, di questo vaccino è stato denominato un componente che si chiama squalene, se ho capito squalene. Squalene, sì, se ho capito bene. E se ho ancora capito bene, questo vaccino, cioè questo componente, era stato utilizzato anche nella guerra del Golfo, dove i soldati americani avevano, diciamo, erano stati tutti vaccinati e tutto, e che ha portato delle complicazioni, diciamo, abbastanza importanti. Anche beh, certo, è immaginabile. Lo chiediamo subito alla dottoressa Salmaso, le risulta squalene come principio attivo nel vaccino? No, non è un principio attivo, lo squalene fa parte dell'adiuvante, la storia della guerra del Golfo è una leggenda metropolitana, già discussa a livello internazionale, ma ovviamente una volta che parte il tam-tam è difficile, perché i soldati della guerra del Golfo ricevettero dei vaccini sperimentali in cui nessuno di questi conteneva squalene all'epoca, tant'è vero che furono dosati addirittura anticorpi per cercare contro questo specifico componente, non furono mai trovati. Queste sono valutazioni fatte a livello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché stiamo parlando ormai di cose sedimentate da anni. Chiarissimo. Guido. Ma una domanda di nuovo a Salmaso, perché senza fare la difesa del titolista, ma come vengono calcolati i numeri, le previsioni che fanno i ricercatori sulla possibile infezione, sulla possibile numero di malati di un paese? Perché in questo caso sembra che siano state estremamente sovrastimate. Poi certamente noi giornalisti abbiamo cavalcato e abbiamo gonfiato la cosa forse, ma c'erano numeri molto alti inizialmente. Non credo che siano stati particolarmente sovrastimati, l'importanza è anche vedere quanto erano importanti i singoli, il valore anche del quadro clinico presentato. Allora, per essere breve, è chiaro che questi valori non vengono buttati a caso, come sappiamo che non si verificano a caso le malattie infettive, noi abbiamo dei parametri di diffusione, cioè si cerca di modellizzare in modo teorico la diffusione delle malattie infettive, e ci sono dei parametri ormai riconosciuti a livello universale di diffusibilità, che ne so, per esempio il morbillo ha un tasso di riproduzione del 18, il che vuol dire che se uno mette un ammalato di morbillo contagioso in mezzo a una popolazione suscettibile, dopo quella singola persona in contatto ci sono altri 18 casi di morbillo. Quindi noi calcoliamo, e sono ormai quasi delle tabelle disponibili un po' dappertutto, il tasso di riproduzione del secondario, quindi con cui si propaga la malattia, e facciamo delle simulazioni e poi calcoliamo un'altra serie di parametri messi. Allora si può preparare una simulazione per vedere nel corso del tempo come si propaga un'infezione, e alla fine si sommano tutti i casi che uno ottiene. Il fatto è che la stima dei casi totali che si possono verificare poi è fortemente influenzata, grazie a Dio, dagli interventi di controllo. Ad esempio, abbiamo detto che all'inizio dell'allarme in Italia ogni singolo caso infettivo che arrivava in Italia non veniva lasciato libero di contagiare, veniva preso, messo in isolamento, tutti i contatti venivano trattati, e quindi si è cercato di interrompere la catena. Uno fa queste stime non per spaventarsi, ma per capire quanto deve essere grande lo sforzo di reazione. Ma quindi mi faccia capire, sono pessimistiche? Provo a fare una Allora, le stime non sono delle previsioni, chiariamo, nessuno ha la palla di vetro, nessuno può sapere quello che succederà, però le stime sono il tentativo di dare una base razionale ha degli elementi che servono per la programmazione. Si è parlato molto in questi anni di preparedness, cioè di preparazione alle emergenze, soprattutto dopo l'11 settembre fatidico, è diventata una parola d'ordine per molti governi. È chiaro che la preparedness non si fa sullo scenario più favorevole in cui non succede niente, ma se succede qualche cosa, ancorché poco probabile, è chiaro che la preparazione deve prendere in considerazione la situazione meno favorevole. È chiarissimo, però c'è Guido che non è convintissimo. Io no, volevo riprendere quello che diceva l'ascoltatore appunto da Padova, perché credo sia un tema molto importante a livello sociale, poi la fiducia che si può avere nei vaccini. I vaccini, sappiamo, sono strumenti importantissimi a livello di politiche sanitarie, però spesso troppo spesso suscitano paure come quelle che abbiamo sentito. In questo caso mi sembra che facciamo un vaccino a tempo di record. Volevo sapere come lo facciamo e in effetti appunto se i soldati del Golfo hanno avuto vaccini sperimentali, la popolazione italiana avrà un vaccino invece che è ben collaudato e rodato o cosa? Allora, le posso rispondere, perché anche qua la preparedness a questa situazione vuol dire che già nel 2002 l'EMEA e poi successivamente con l'allarme dell'aviaria, l'EMEA, che è l'agenzia europea che regola le registrazioni di farmaci e vaccini per tutta l'Unione Europea, aveva convocato tutte le aziende farmaceutiche dicendo: è probabile che ci sia una pandemia, che cosa facciamo se succede che non abbiamo tempo di mettere un vaccino appunto durante la pandemia? E c'è stato un consenso unanime nel decidere che quello che caratterizza il vaccino, ovviamente non si può preparare un vaccino contro il virus che non è ancora emerso, però la caratteristica del vaccino di tollerabilità e attività biologica, cioè capacità di dare una risposta immunitaria, non dipende dal virus che ci metti dentro, ma della modalità con cui hai fatto il vaccino, quindi la presenza di adiuvante, le altre componenti. Poi in quel vaccino ci metti le proteine del virus contro il quale vuoi indurre la risposta immunitaria, e quindi hai ottenuto un vaccino abbastanza mirato. Ecco, dottoressa. Dal 2002 in poi sono partite le industrie farmaceutiche che hanno deciso di investire su questo, e nel 2007 in Europa sono stati registrati 4 vaccini prototipi che non si potevano utilizzare con tutte le prove cliniche già fatte, che non si sarebbero potuti utilizzare se non in corso di pandemia. Ecco, noi restiamo sui vaccini e restiamo anche sull'aspetto economico dei vaccini, che andiamo subito ad affrontare con Livio Garattini, farmaco economista. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ecco, noi stiamo parlando di un mercato da 10 miliardi di dollari, se non sbaglio. Sì, è un po' difficile quantificare il mercato complessivo, le stime delle società specializzate sono su quell'ordine di dimensione di cui parlava lei, e quindi moltissimo. È chiaro che è più difficile stabilire cosa possa essere la situazione per quanto riguarda l'Italia, nel senso che a questo forse mi fermerei, cioè qual è l'impatto possibile del costo di questa vaccinazione in Italia. Ecco, di tutti questi argomenti fin qui effettuati, anche oggi ci sono numerose dichiarazioni, sono emerse anche le linee salienti del piano. Nel contempo, ecco, ovviamente la sanità viene prima dell'economia, però se ci si interroga, giusto, è normale interrogarsi su cosa possa essere l'impatto economico di tutta questa manovra. Oltretutto va ricordato che oltre ai vaccini c'è il costo anche della somministrazione, perché per un numero così ingente di soggetti immagino che si ricorrerà anche per esempio alla medicina generale convenzionata, il che vuol dire un costo ulteriore, un aggravio ulteriore di costo per ogni somministrazione. E poi si è visto in questa settimana, si è assistito anche a una forte pressione da parte dei produttori di antivirali. Ecco, c'è un ascoltatore che ha dato un SMS, lui si domanda: se da qui a Natale il virus dovesse mutare, il vaccino sarà ugualmente efficace? Lo chiediamo alla dottoressa Salmaso. Ma questa è stata una strategia decisa anche questa a livello internazionale, proprio per infatti l'utilizzo dell'adiuvante interno che è messo nel vaccino dovrebbe favorire la cross protezione. Ripetiamo, la palla di vetro non ce l'ha nessuno può sapere cosa succede, però è anche vero che se anche muterà un po' come atteso, perché il virus dell'influenza sono dei gran trasformisti, nessuno si aspetta grandi variazioni, soprattutto da qui a Natale. Ecco, dottoressa Capua, qualcuno si aspetta una mutazione? Cioè è così peregrina questa ipotesi? Ma guardi, il termine mutazione è un termine molto generico, e quindi i virus dell'influenza mutano, ma a volte queste mutazioni non si traducono in nulla. Quindi il fatto che il virus si modifichi nel tempo è un fenomeno naturale per i virus influenzali. Ci sono alcune mutazioni che possono trasformarsi in delle, diciamo, situazioni preoccupanti, più preoccupanti e meno preoccupanti, però già cominciamo a vedere, per esempio, alcuni ceppi che sono resistenti agli antivirali. Questa è un cambiamento nel genoma che ovviamente preoccupa, specialmente se questi casi poi non rimangono isolati ma si estendono. A mio avviso, come ha detto la dottoressa Salmaso, noi la palla di vetro non ce l'abbiamo. C'è da dire però che questo virus, che si comporterà adesso come un virus dell'influenza stagionale, possiamo augurarci che non cambierà significativamente. Guido, abbiamo tempo giusto per una domanda ancora. Una domanda subito a Garattini, al farmaco economista, che è una domanda importante. Ha accennato anche Capua, in questa cifra di 10 miliardi, che è una cifra di JP Morgan, ci sono antivirali e vaccini. Gli antivirali sono la prima linea di difesa e sono quelli già esistenti. Vorrei che Garattini ci spiegasse, diciamo, un po' i costi e benefici di antivirali e vaccini, perché questa è una grande polemica che ritorna ogni volta che si parla di influenza. Ma sì, sicuramente è un punto da chiarire. È evidente che tutto questo tam-tam mediatico rischia di generare ulteriore confusione in una situazione già poco chiara. Comunque, per rimanere alla cronaca, in questi giorni c'è diciamo lo sforzo comune da parte dei due produttori, che sono due colossi del farmaco, di cercare di stressare l'importanza, anche in fase profilattica, quindi in fase preventiva, di questi prodotti, che ricordiamo sono antivirali specifici, cioè non sono pensati solo per l'influenza A, non sono stati pensati per questo, ma sono per qualsiasi tipo di influenza. Diciamo, non compete a me dire quali sono le problemi di efficacia, ma penso che possano intervenire anche gli esperti in linea. Comunque ci sono dei grossi dubbi sul fatto che sia necessario ricorrere a questi farmaci. Oltretutto comincia a emergere in modo evidente, almeno dalle ultime dichiarazioni, che le aspettative sono di una influenza abbastanza blanda, per cui ci si chiede ulteriormente Ce lo auguriamo. Io ringrazio Livio Garattini, Stefania Salmaso e la dottoressa Ilaria Capua. Il tempo è scaduto. La pubblicità trova spazio su Twitter. I gestori del popolare social network hanno deciso di modificare le condizioni del servizio per autorizzare le inserzioni promozionali. Si aprono nuove prospettive di business per il sito, che ogni mese riceve 45 milioni di visite. Inizia l'era della pubblicità cinguettata? Google ha realizzato un sistema che permetterà il pagamento dei giornali online. Il progetto del colosso di Page e Brin permetterebbe di acquistare articoli sui siti dei quotidiani mediante un servizio di micropagamento. Secondo il centro di ricerca sui media dell'Università di Harvard, il motore di ricerca avrebbe già proposto il sistema all'Associazione dei giornali americani. Al primo posto Samsung Impression, maglia nera, per Kyocera Jax S1003, un vero forno a microonde telefonico. L'associazione americana Environmental Working Group ha stilato la classifica dei cellulari in base alle radiazioni emesse, riportando i 10 più virtuosi e i 10 a più alte emissioni elettromagnetiche. Un Google Phone by Motorola, è il nuovo prodotto dell'azienda di telefonia mobile americana presentato ieri sera a San Francisco. Il dispositivo disporrà del software Android sviluppato da Google, capace di una forte integrazione con i social media. Motorola punta a riconquistare i settori di mercato in cui ha più subito la concorrenza di rivali come Apple, Nokia e Samsung. Navigare a vela nello spazio esterno sfruttando il vento solare è l'idea proposta da Colin McKinse della Strathclyde University al British Science Festival. Utilizzando vele solari, le astronavi del futuro potrebbero muoversi anche a grandi velocità, senza dover trasportare combustibili. Da oggi nei negozi è disponibile Guitar Hero 5, nuovo capitolo del videogame che permette di trasformarsi nelle rockstar più amate del passato e del presente. 85 i brani musicali disponibili, più 150 scaricabili e altri importabili dalle vecchie versioni del gioco. Bentornati, un ringraziamento a Leopoldo Papi che ha scritto le news e ricordiamo che noi non smettiamo di occuparci di influenze, insomma continueremo a scrivere su Nova, ma soprattutto scriveteci voi, cominciamo a dare due indirizzi, novalab24@radio24.it è la mail, novalab24 è invece l'account che abbiamo aperto su Twitter e poi... E poi ci trovate su Facebook nel gruppo dei lettori di Nova e poi abbiamo un po' di indirizzi per voi dove continuare a informarvi su che cosa succede in termini di influenza. Il primo è ministerosalute.it, ha anche un call center al 1500 1500 e lì potete vedere quali sono appunto gli allarmi in corso, le misure che si prendono a livello nazionale. A livello internazionale WHO.int oppure OMS.int, il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco Guido, ti leggo al volissimo un ultimo SMS di Marco da Parma che domanda: ma è vero che i virus sono prodotti in laboratorio dalle case farmaceutiche o è una leggenda metropolitana anche questa? La seconda che ha detto, direi. Non abbiamo prove, non abbiamo alcuna prova di questo tipo, però insomma le leggende metropolitane evidentemente circolano e ci sono, hanno una loro ragion d'essere. È una leggenda metropolitana, non come i virus, le leggende metropolitane sono inarrestabili. Tra l'altro lo stesso discorso vale sui virus informatici, nel senso che l'altra leggenda è i virus vengono prodotti da chi sviluppa software antivirus. Non lo sappiamo, non ne abbiamo alcuna prova. Ecco. Diciamo che produrre un farmaco è già così costoso che produrre anche il virus sarebbe veramente difficile per un'azienda farmaceutica, al contrario rispetto ai virus informatici che sono piuttosto facili da quello produrre. Di cui siamo assolutamente certi è che ci sentiamo lunedì alle 4 e torna Nova Lab 24. Arrivederci.